normalissimo computer stampante, ADSL, ma non... come nello standard della maggior parte delle famiglie, penso. Quanto è digitale la sua casa? Poco, veramente poco. Ma il vostro computer è connesso al telefonino, alla TV? Solo alla TV. Quindi lei non ha interesse nelle power line, queste nuove tecnologie? No, no, non lo so neanche usare, quindi... E le console di gioco le utilizza? No, no, no, non mi piace. Ma perché non le interessa o perché teme che sia troppo difficile utilizzarle? No, ho avuto già giochi in passato, ma ci gioco tipo un giorno, poi non mi piace più. Ma la vostra casa è digitale? Assolutamente no. Perché? Perché non è stata costruita recentemente. È uno dei fattori principali per cui uno sceglie se farlo oppure no. Il costo è la base di tutto. Ad esempio, internet sulla televisione non è così interessante, è più interessante sul computer, si vede meglio. E una radio che si connette internet non ce l'ho, ma non mi interessa neanche, devo essere sincero. Ma intanto dobbiamo un po' aggiornarci su tutto quello che può essere digitale o no. Non abbiamo internet. Non ci interessa, perché tanto così siamo sempre lì in internet, è meglio uscire con le nipotine.